Sirena che suona, prendono il largo l'aurora, partono chissà per quale mare, quale città, la loro ancora è nei loro occhi, il loro sguardo pieno di trucchi, sono pescatori, hanno alle mani celesti reti, navigano il mare, lo sguardo oltre, oltre le vele, li vedi nudi ballare nel sole, una mezzaluna in fondo al cuore, avanzano scrutando il cielo e ti parlano senza parole, prendono a calci il tempo e fanno a pugni sempre col vento, ti si presentano a volte la notte, sotto le stelle loro giocano a carte, se tempesta arriva al cuore, loro lo affidano all'equatore, la mattina loro prendono il largo e vanno dritti ad abbracciare il tuo sguardo, pescatori liberi, certi uomini, danno un senso a questa vita, la loro pesca infinita, pescatori di sogni di perle, pescatori nel mare di stelle, pescatori che vanno a pescare lì dove pochi osano andare. Lampara di luce, dimmi se un giorno avrò pace, incollati ad una stella, con il mal di terra, come in un film ti fanno sentire tutti i silenzi e gli odori del mare, navigano poeti in ogni mare, terra, figli del vento, figli, figli, figli di una guerra, loro che hanno molto da dire, te lo vogliono raccontare, il mare pieno di scogli segreti, intime cale, amori vissuti, loro che hanno molto da dire, te lo vogliono raccontare. Portano luce all'alba in silenzio, prendono il mare verso l'immenso, se tempesta arriva il cuore, loro lo affidano all'equatore, la mattina loro prendono il largo e vanno dritti ad abbracciare il tuo sguardo, pescatori liberi, certi uomini, danno un senso a questa vita. La loro pesca infinita, pescatori di sogni di perle, pescatori nel mare di stelle, pescatori che vanno a pescare lì dove pochi osano andare, oh, pescatori liberi, certi uomini, danno un senso a questa vita, con la loro pesca infinita. Pescatori di sogni di perle, pescatori nel mare di stelle, pescatori che vanno a pescare lì dove pochi osano andare.